Le firme hanno superato le 55.000 e presto potrebbero arrivare direttamente nelle mani del Presidente della Repubblica. L'Italia dice basta ai segreti di Stato e chiede l'apertura di tutti gli archivi in nome della verità su stragi che sono ancora ferite aperte. Con quest'ultimo processo è emerso con estrema chiarezza che tutta una serie di documenti sottratti alla magistratura in questi ultimi anni, se non li avessimo avuti nel 1974, cioè all'indomani della strage di Brescia, sicuramente le indagini sarebbero andate in un altro modo. Manlio Milani è il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza della Loggia ed è stato soprattutto dopo l'ultima sentenza e l'ultima assoluzione per la strage di Brescia che la richiesta di aprire gli archivi, rinnovata da sempre dai parenti di chi ha perso la vita in quella stagione di bombe, è diventata una domanda corale, sempre più forte ad ogni nuova firma apposta a questo appello. Un'intera stagione, quella dello stragismo che ha macchiato di sangue l'Italia, rischia di essere archiviata. Per garantire un cammino trasparente alla giustizia, anche in relazione al resto delle inchieste tuttora in corso per altri fatti di criminalità organizzata e rendere possibile la ricerca storica su quegli anni, avvertiamo sempre di più una triplice esigenza. Chiediamo che siano aperti tutti gli archivi con una gestione che ne faciliti l'accesso a tutti i soggetti interessati. Chiediamo che vengano fatte decadere tutte le classificazioni di segretezza su tutti i documenti relativi all'evento, compresi i nominativi ivi contenuti, in possesso in particolare dei servizi segreti, della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, che i documenti vengano catalogati e resi pubblici senza distinguere tra documenti d'archivio ed archivio corrente. Chiediamo che sia data piena attuazione alla legge che regola il segreto di Stato, la quale prescrive che passati al massimo 30 anni dalla data in cui è stato apposto il segreto, tutti i documenti che si riferiscono all'evento siano resi pubblici e consultabili. Non è più accettabile che a tutt'oggi manchino gli specifici decreti attuativi. In tal senso, il Freedom of Information Act statunitense ci pare un modello a cui è possibile ispirarsi. Occorre garantire alla verità e alla giustizia il giusto corso. Non dobbiamo consegnare le generazioni che si sono succedute da allora ad oggi alla rassegnazione e all'avvilimento. Ci sono i magistrati che hanno indagato su quegli anni, come Guido Salvini o Rosario Priore. Ci sono intellettuali come Dario Fo, Gad Lerner o Roberto Saviano. C'è Susanna Camusso come Rosa Calipari o Felice Casson. E poi, soprattutto, ci sono tantissimi semplici italiani tra i sostenitori di quest'onda di giustizia che ha incassato già l'appoggio anche del Copasir e ora punta ad arrivare direttamente al Quirinale. L'apertura degli archivi è nell'interesse degli stessi servizi, scrive il presidente del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, Massimo D'Alema, convinto che valorizzerebbe le attività svolte dagli organismi a tutela della sicurezza nazionale. Si sgombrerebbe così il campo dai sospetti, aggiunge, consentendo alla magistratura di accertare le effettive responsabilità, a giornalisti e storici di far luce su episodi importanti della nostra storia, episodi che sono state stragi, sanguinose e dai contorni non ancora del tutto chiariti. Li elenco Milani. Tutte le grandi strade, Piazza Fontana, la Questura di Milano, Peteano, Brescia, il treno italico su fino al 1980 con la stazione di Bologna, per poi arrivare all'84 col treno di Natale, eccetera. Il problema di fondo è proprio quello di far sì che tutte queste stragi, che come ha riconosciuto il 9 maggio scorso il Presidente della Repubblica in occasione della giornata della memoria, le stragi sono impunite perché si sono avvalse anche purtroppo di uomini degli apparati dello Stato, devono essere messi con estrema chiarezza. Occorre togliere qualsiasi dubbio che attraverso la chiusura degli archivi si impedisca di raggiungere una verità, soprattutto una verità storica, cioè la ricostruzione del perché e delle ragioni di quelle strage. E forse anche un segno di maturità di un paese, di una democrazia, riuscire a confrontarsi con quelle verità. Certo, io sono convinto che il paese sia in grado di sopportare la memoria e la verità, quindi di quei fatti. Nell'appello si cita la legge del 3 agosto 2007 che stabilisce la caduta del segreto dopo 30 anni e si bolla invece come inaccettabile l'ipotesi di qualche mese fa della Commissione Granata di reiterare il veto su quegli atti anche dopo la scadenza. E proprio per questo precedente, anche se non soltanto per questo, non è davvero ottimista sull'esito della mobilitazione, almeno sull'immediato, Paolo Bolognesi, lui che ad ogni 2 agosto davanti alla stazione di Bologna a nome di quegli 85 morti e degli oltre 200 feriti torna a chiedere la caduta del segreto, quindi verità e giustizia. Il segreto sui documenti è quello che blocca la verità. Il segreto non è solamente quello posto in maniera ufficiale ai giudici, perché ad esempio sulla strage di Bologna non è mai stato posto il segreto di Stato, però ci sono i segreti di servizi che hanno tutelato i terroristi, hanno protetto mancate risposte, mancati documenti consegnati ai giudici. Ecco, anche per questo noi chiediamo che, tra l'altro, passati 30 anni, tutti i documenti vengano resi pubblici e dati al magistrato. Questo sarebbe il passo che farebbe dire che il palazzo vuole la verità. Per Bologna la caduta del segreto e soprattutto la consegna dei documenti dei vari archivi alla magistratura potrebbe voler dire fare dei passi avanti verso i mandanti e gli ispiratori politici della strage. Questo sarebbe fondamentale per fare in modo che questo paese diventi finalmente democratico. Attenzione base stazione, da Terodio si è copiato il falli. Ci sono molti feriti. 30 anni sono passati dalla bomba di Bologna, 41 da Piazza Fontana, la strage che tolse l'innocenza al paese e spalancò il baratro degli anni di piombo. Ma ancora, ad oggi, troppe porte sbarrate di armadi e archivi hanno bloccato il cammino verso la verità e verso una giustizia autentica. La seconda edizione di Italia in Controluce. Sul nostro sito trovate radio24.it, potete ascoltare tutte le puntate e trovare anche il mio blog Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it, Twitter in Controluce. La mia voce e le storie di Italia in Controluce tornano lunedì 13 dicembre alle 6:30 su Radio 24.